respira nei vicoli. Tra i capelli giocandoci. Fermo il cuore serrandolo. Sospesa nella trepida attesa. Vedi il mio capricola proiettata sull'anima di ricordo sottile. Questo mio film d'aprile. Quanti giorni faticano nell'arrivo di un sabato. Quando danza la tenebra mai cattiva di un cinema, ignorando la tela nel solerte candore, abbandono il mio sguardo. Idillia capellicola proiettata sull'anima di ricordo sottile in questo mio film d'aprile. Fin d'aprile, nel silenzio del giorno, va sbiadendo il suo volto, resta solo il bagliore sulla tela, sul cuore.